Buongiorno, in bottega. Te cos'è questo? È una radiotrasmittente, fammelo vedere. E me l'ha fatto vedere, no? E così via. E da lì ho incominciato, poi dopo poco tempo ho avuto l'occasione di avere un tocca ai sei canali e poi ti racconto. Antone. Sì, sono qua. È venuta questa passione e l'idea di entrare per questa, tutto lì manca. Sì, Antonello è rientrato, è Giulio. Sì, ma mi chiedo appunto, pre-legalizzazione, a quanto dicevano era un rischio se ti beccavano in casa, sai, fine anni 60, inizi 70, poi mi pare nel 73 l'hanno legalizzata, mi pare. E quindi sai, le antenne le alzavano con l'imbrunire, no? Quando calava già il buio, si sollevavano, come ha scritto quel tipo, timidamente le Grand Plain. Sei coricabile, no? con qualche sistema posticio, in modo che a fine modulazione la potevi riabbassare e nessuno vedeva niente poi di giorno sul tetto, capito Giulio? Vai Antonetto. Sì, anche a me lo ricordo infatti. Tu in che anno sei entrato Antonetto, te lo ricordi? 74. Oh, anche tu sei entrato e quanti anni avevi? Insomma, non me lo ricordo, ma comunque sia, stavo facendo la crisi, ma figurati tu. Io sì, quindi agosto dell'84 avevo compiuto 13 anni, Giulio. Ero anche abusivo, non potevo modulare perché il minimo per modulare all'epoca era 14 anni, ma forse anche tuttora, E quindi mamma mi ha inserito nella concessione un anno dopo, quando ho compiuto il 14° anno. Sì, in effetti prima era così, e prima c'erano tante cretinate da osservare, tipo che so io, il permesso dalla questura per poter detenere l'apparecchio, o la concessione e così via, quante stupidaggini. Sì, ha ragione, nel 73 hanno stabilito che si poteva modulare, cioè la legge l'hanno fatta nel 73. Ma noi qui in realtà siamo usciti proprio allo scoperto, alla grande, intorno al 74, anche se prima ce l'avevamo già da prima. Tu pensa che io avevo, Marco, avevo un autoradio che c'era incorporato anche il baracchino in un unico apparecchio. Per cui cosa facevo? Quando dovevo utilizzare l'apparecchio all'antenna dell'autoradio, perché allora avevo l'antenna quella elettrica, no? Messa nella coda del 1100, allora mi ricordo avevo il 1100D, avevo con le marce al volante, e ci innestavo un pezzo di antenna per poter arrivare a quella frequenza, se no era un autoradio e basta, però c'era anche il baracchino. Chi ha fatto? Secondo te che Daniele mi ricorda? Tu rifai? Mica non siamo il buttafuori del locale, no? Appunto, vero Daniele? Allucinante. È divertente però quell'episodio, eh. E Giulia, se te ne racconto una. Allora, a parte che molti CB ci avevano dato informazioni errate, ci avevano detto che con qualsiasi 23 canali era omologato. E invece no, perché quell'Ixtal 23 canali AM non era omologato. In un primo momento c'è stata rifiutata la concessione perché non rientrava tra quegli apparati omologati, a parte che era americano questo Ixtal e che faceva anche un TVI terrificante, cioè fuori dal normale, no? Allora subito dopo avevamo usato i portatili che avevamo, che erano omologati, era il Great, allora il CTE Alan 33, Great CTE Alan 33, che era il portatile, tre canali, 3 watt omologato, è stato il primo messo in concessione. poi nell'86 abbiamo preso l'FM 500S, abbiamo sostituito il portatile che avevamo venduto, anche quel portatile lì abbiamo messo in concessione l'FM 500S, comprato da Cine Radio. Bello, l'ho comprato anch'io da Cine Radio, il 500S, 34 canali però, quello che avevo io era, che poi l'ho modificato spostando un filo nel commutatore del canale, ho spostato un filo da una posizione a un'altra, perché avevo trovato una rivista di CQ, se ricordo bene, di CQ elettronica, che mi potevo fare questa modifica. L'ho fatta e da 34 canali erano diventati 52, praticamente i soliti 40 canali sopra e più c'erano canali sotto. Sì, c'erano vari modi, vari trucchetti per ottenere più canali. Adesso ti rilancio, Antonio, un attimino, gli dico questa cosa a Giulio. Allora, quindi i CB ci avevano detto che tutti i 23 canali erano omologati e non era vero, solo quelli nella lista degli apparecchi PT, poste, quella lista lì, no? È uno. Poi non ci avevano detto che avevamo l'obbligo di denunciare in questura l'apparato, cioè marca, modello, numero di serie. Ma l'ha fatto il pantalone, amore. Aspetta. E non avevamo appunto denunciato in questura l'apparato, perché non ce l'hanno detto i CB di farlo. E un giorno ci arriva questa raccomandata dalla questura. Che tale commissario tra le tali dice, invitava la signoria vostra, mamma in questo caso, dice, per discutere di affari di polizia. E ho detto, ma cavolo è successo, fai il passaporto e scappiamo. Ho detto. No, cosa era? Semplicemente, gentilissimo, ci ha detto che siccome noi avevamo la concessione dovevamo denunciare il possesso del baracchino, e quindi noi poi ci siamo muniti, abbiamo portato marca, modello, numero di serie e denunciato il possesso di tale apparato, che risultava anche, l'abbiamo specificato, essere in concessione, ecco, tutto lì. Però sul momento ci siamo un po' assustati, capito Giulio? Poi rilancia il tonnello, vai Giulio. Sì, prima era così, Marco, prima era così, purtroppo ti obbligavano ad avere certe concessioni, sia quelle della questura che quelle delle poste, per cui lo dovevi fare e basta, se volevi stare tranquillo, e pagare le solite 15.000 lire all'anno di tassa, che poi con il passare degli anni l'hanno ridotta a 12 e poi finalmente l'hanno tolta del tutto, ma non è che ci hanno fatto un favore, perché intanto 12 euro non fanno gola a nessuno, chiunque potrebbe pagare 12 euro, ma per dire, no, si sono fatti vedere chissà cosa hanno voluto dimostrare il governo, nulla non ci ha regalato, nulla, perché la radio è stata sempre nostra, il microfono è nostro, l'antenna è sempre nostra, non ci hanno mai dato un ripetitore, non ci hanno dato mai niente, per cui noi abbiamo fatto sempre tutto a nostre spese. Vai Marco. Antonio, riprendi tu, Antonio, che sei in bianco, e dici qualcosa. Si è sentato? Vediamo. Ma sto scendo. Ah, perché l'avevo messo al minimo. Aspetta, l'avevo messo al minimo, non me l'ero accorto. Per farti sentire il saluto di mamma. Sì. No, già sta riuscendo, no, non c'è problema. No, Antonello non ha ripreso Antonello. Si vede che si è allontanato di nuovo. Sta giocando con i posti. Eia. Se ti ricordi bene, Giulio, almeno parlo degli anni 80, si pagavano 15.000 euro ad apparato, cioè se tu avevi più omologati pagavi 15.000 lire per ogni apparato omologato che avevi. Poi hanno cambiato e sono diventati 12 euro. Cioè prima si pagava ad apparato, invece poi si pagava a persona, potevi avere tutti gli omologati che volevi, ecco, pagavi sempre 12 euro, indipendentemente, dice, dal numero di apparati posseduti. Sì, infatti era così, poi era diventato, alla fine era diventato così. Ma allora hanno pensato di farci una cortesia, ma di cortesia proprio non ne possiamo proprio parlare, perché per noi avere o non avere 12 euro all'anno non era un problema per nessuno, nemmeno per le persone meno abbienti, per cui non c'è problema. Però adesso hanno deciso così e ci sta bene, perché no? E poi hanno tolto tutto, no? Vedendo che non c'era più un'anima, hanno tolto anche 12 euro, libero uso, cioè non paghi più i 12 euro, non devi fare dichiarazione di inizio attività, però restano poi tutte le altre regole, quelle rimangono, perché qualcuno aveva capito male, e aveva capito l'uso è libero voleva dire che potevi fare il cavolo che volevi, no, le altre regole sono rimaste, hanno tolto solo i 12 euro e la dichiarazione di inizio attività, K. Sì, infatti è così. Vabbè, comunque va benissimo, non c'è problema. Nonostante tutto, adesso che ci sono, che c'è facoltà di fare quello che vuoi, compratelo senza nessun avviso da parte di nessun ente, a nessun ente, nessuno entra. Vabbè, diciamo, è un'altra generazione questa di adesso, o magari perlomeno nelle ultime due generazioni, non è che siano entrate poi tante persone, qualcuno così, ma non più di tanto. Poi adesso proprio in questi ultimi due o tre anni proprio zero completo, anzi nonostante tutto siamo sempre ridotti sempre di meno. Basta vedere, io fino a due o tre anni fa contavo una decina, 15 persone, oggi quanto ne posso contare? 5 su una mano. Purtroppo stanno mancando anche utenti storici, sono mancati Natalino, Graziano, poi vabbè c'era gente che non modulava più da anni, che è mancata da poco anche. Ci stiamo assottigliando, Sì, infatti, chi era quello che vuole entrare? Avanti. Andava a propagazione tipo americano, mi l'ha parlato. Poi beh, d'altronde. Il tempo, come si dice a Sassari, lo tempo viene e passa. Tutto questo che è passato non torna più. Chi è quello? Avanti, chi è quell'asinello che non vuole rispondere? Inglese, americano secondo me, però forse sente più te che sei con più, magari qualche watt in più, io con 4 watt non credo. Io ho sempre la vecchia concessione, Giulio, l'avevo messa anche su un forum, naturalmente, come dire, censurata, no? Nelle parti con firme, nomi. Però era uno spettacolo da vedere, 10.000 divieti c'erano, era vietato fare tutto praticamente, e in più ti dovevi assorbire eventuali disturbi e interferenze, te devi pure tenere. Sì, prima era così, diciamo che la gente è stata, molte persone sono state molto scorrette in tutti i sensi, con le persone che magari facevi queste e soprattutto anche con persone della strada, del vicinato eccetera, perché non era possibile utilizzare certe apparecchiature che faceva un disastro, no? Non era possibile, eppure c'erano quelle persone, per conto mio persone scorrette, io ho sempre pensato questo, e cosa ci vuoi fare? Per non parlare poi la maleducazione che c'era prima, tanto è vero, tante donne sono anche sparite anche per quello, soprattutto perché c'era gente troppo con la bocca troppo sporca, che non faceva altro che lanciare parolacce, eccetera, eccetera. Non sono tutte le persone che accettano un linguaggio del genere, Marco. È vero. bisticci a sangue c'erano, un po' di tutto là. Comunque Giulio, ho trovato i file originali, quelli occultati, diciamo, quelli censurati. Se vuoi te li passo, così te la riguardi. Se la fai vedere così a qualcuno che ha interesse. E questa è come era nell'85, perché poi certe volte le hanno un po' modificate leggermente, no? La forma proprio della concessione. Perché c'era la concessione vera e propria e poi il disciplinare con tutti i divieti, no? Se vuoi ti passo le foto. Ehi, passate pure, ma non c'è problema. Io lo so per quello anche da ricerca di ascolto di tantissimi anni. Se ricordo bene il numero è 291. Allora ti mandavano una specie di cartolina con l'autorizzazione ad impiantare una stazione d'ascolto. Oggi invece tu fai la domanda, se non ne fai nemmeno domanda, ti compri l'apparecchio e ascolti e basta, non serve più a niente. Purtroppo è così, oggi è cambiato tutto. Ehi, sto mandando le pagine in ordine, dalla prima fino all'ultima. Se metti il tablet in orizzontale o il telefono lo leggi meglio anche. All'epoca sì, c'erano 23 canali solo, o 22, perché qua aspetta, vabbè dopo guardo le frequenze. Diciamo che c'erano Baracchina 23 canali oppure 22 canali più il canale Alfa, cioè l'11 Alfa, canale 22 e poi l'11 Alfa, tipo ad esempio il Tokai 50-24 che io ho avuto, era un ultimo apparecchio allora in quegli anni lì, era un bel baracchino che la maggior parte delle persone possedeva proprio quello. Il leggendario Tokai. Il leggendario Tokai, sì, 50-24, che poi c'era anche lo Zodiac 50-36, che in pratica non era altro che il clone del 50-24 in pratica. Eia. Peccato, l'unica cosa che non mi piaceva niente dello Zodiac e delle Tokai era la spina a pressione. Perché a seconda di come tiravi in baramobile si sganciava, almeno teoria mia, non credo che avesse tanta resistenza alla trazione. Sì, e beh, prima i sinuti erano fatti così, di quelli a 5 punte, per cui oggi poi è tutto diverso, poi c'è anche la ghiera, che avviti la ghiera e rimane bloccato, ma prima no, prima era tutto diverso, in effetti. E il 50-24 aveva anche il cicalino, quando schiacciavi, sempre continuo, il cicalino. Sì, il tasto mi pare cal, con cui mettevano certe portanti, era un bel fastidioso quando lo usavano per portantare. Quello lì era l'arma appunto per poter fare rispetto agli altri, cose assurde, cose veramente inaccettabili, però purtroppo la gente maleducata c'è sempre stata, come in tutti i casi della vita, sia ben chiaro, però ma allora era proprio una bolgia proprio di parolacce, di gente maleducata, eccetera, nonostante che sempre su 24 ore su 24 tu accendevi e c'era sempre gente a tutte le ore del giorno e della notte. Eia, è vero, si facevano le ore piccole, gruppi di persone, ragazzi con ragazze, anche fidanzati che per parlare a distanza e per non dissanguare i genitori col telefono usavano il baracchino. Sì, infatti era così, prima era così. Poi chiaramente col passare degli anni hanno incominciato la gente a stancarsi, tanta gente ha abbandonato, hanno incominciato le donne a ridursi di numero, perché prima erano tante donne che c'erano, ma poi piano piano si stancavano perché c'era gente troppo maleducata e poi c'era gente anche che ne approfittava, qualcuno ha preso anche qualche schiaffo da qualche donna. Perché mi ricordo in un certo locale, in un posto una volta, siccome era stata offesa da un certo da un tale, si sono incontrati, così lui non sapeva che era quella la persona alla quale lui aveva insultato, l'ha preso e l'ha dato un bel ceffone, ma di quelli proprio a tutto braccio. Un ceffone bendato, come diceva nonno, dice non solo bendato, ma proprio bendato con le bende, da lui già. Dice adesso dimmelo adesso di fronte in faccia a quello che mi ha detto al baracchino, gli ha detto. E questo sto parlando di un vecchio CB, quello che ha avuto questo affronto. Deia, ho inviato tutte le pagine, naturalmente sono un po' ingiallite, eccetera, sono sempre nomi, dati, bolli, tutto coso, però ogni tanto me la riguardo, è affascinante nel suo orrore la vecchia concessione. Sì, ma sicuramente qualcosina avrò anch'io. Ripeto, io ho tante di quelle cose conservate da anni dentro una cassetta, o meglio più cassettine, con tanti documenti di ogni genere. Il giorno che mi salta in mente prendo a uno il controllo tutte le scatole e faccio un po' di piazza pulita. E intanto sono queste cose inutili, tu mi dirai, ma sono cose antiche da tenere anche così come ricordo, ma diciamo che non è che mi interessano più di tanto, però uno che è appassionato anche dei vecchi ricordi ce l'ha e se li tiene e fa bene. Sì, la licenza d'ascolto l'avevo fatto in ritardo, nel 90 l'avevo fatta la licenza d'ascolto, però era un foglietto più misero, così, più insignificante, sì. Poi hanno abolito anche l'SWL, la licenza SWL. Cioè se la vuoi fare, è giusto per così, manco facci mandare le QSL perché magari non te le mandano, se tu gliela mandi a quello ascoltato, però quello non contraccambia, dai, se non sei un radioattore non contraccambia nemmeno. Sì, avevano liberalizzato anche l'ascolto, cioè la QSL era, se la volevi fare bene, se no uguale, e a quel punto nessuno le faceva più, ma la QSL, la SWL. Sì, infatti era così, si facevano anche quelle cose lì, è vero. Poi c'è per quello anche il fatto della patente da rilevatore, prima c'era solo la speciale, poi l'hanno tolta e adesso da qualche tempo l'avevano di nuovo introdotta, però si chiama patente, non mi ricordo se è patente A o patente B, cioè per definire il tipo di patente, cioè che puoi utilizzare una frequenza o tutte le frequenze, adesso non mi ricordo perché tempo fa l'avevo letto da qualche parte, qualcosa del genere. Praticamente prima l'hanno tolta la possibilità di avere la patente così per i 2 metri e adesso quanto sembra l'hanno reintrodotta, però non so niente di preciso, la verità. Magari bisognerebbe vedere le ultime cose del MISE, del Ministero lì dello Sviluppo Economico. Anch'io ho perso di vista un po' di cose. Io so solo che i canali PMR sono stati ampliati. Da 8 che erano sono diventati non so quanti e ci hanno messo quindi modulazione FM, modulazione digital PMR e modulazione DMR, tutto, in questi mi pare siano una ventina di canali, ci hanno messo tre tipi di trasmissione, FM, digital PMR e anche DMR. Sì, adesso stanno facendo quel tipo di apparecchiature, ma è solo un fatto commerciale, non so quale successo possa avere, perlomeno oggi come oggi, il continente bisogna vedere ancora gli acceri gente che muove, la verità, siamo noi che siamo ridotti proprio alla fine della frequenza. No, ma fuori penso di sì, ancora qualcuno c'è, anche se devo dire tutti i giorni sento propagazione, ma è solo propagazione straniera, non sento gente che parla l'italiano, pochissimo, qualcuno, una volta ogni volta di Papa, ma veramente qualcuno. La propagazione dall'Italia primavera estate, quando non è troppo lunga, riesce a sentire l'Italia. Mi è capitato anche quest'estate, anzi questo diceva, caspita, è da parecchio non sento gente dalla Sardegna e in particolare da Sassari. Sembra, dice, che non ci sia più nessuno nella tua città. Infatti è quasi così, è praticamente così. Antonello, ci sei ancora? Ti abbiamo lasciato un po' in bianco, ma poi ti eri assentato. Magari impegnato. Giulio, io stacco perché siamo ore. No, quant'è? Che ore sono? Beh, con Antonello c'eravamo tipo dalle 3, mi pare, in radio. Sono le 6, 3 ore di radio, mamma mia. E quindi stacco adesso e faccio altro, dai. E Giulio, ci sentiamo. Poi guardatela con calma, non so, ai tuoi tempi può darsi che fosse ulteriormente diversa, quando l'hai fatta tu la prima volta, negli anni 70, nei primi 70. Questa è dell'85, questa versione di concessione. Ok, ci sentiamo, buon proseguimento, buon tutto. E alle prossime. Idem con patate e pomponi, se ancora l'ascolto. Ok, ciao Marco, alle prossime allora, dai, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata. E anch'io ci sono già un paio d'ore, buoni, buoni, forse anche di più di 2 ore per questa. Perciò stasera va bene così per stasera. Sì, mi ricordo la prima domanda che avevo fatto, cioè la domanda che avevo fatto io, esattamente, in quegli anni lì che l'avevo deliberata, mi aveva dato il modulo, un certo Macallen, un vecchio, vecchissimo CB, un ex ferroviere, che lui era quello che distribuiva i moduli per la concessione un po' a tutti. E l'avevo dato anche a me, l'avevo compilato e fatto la concessione. Va bene, ciao Marco, di nuovo, salutoni, salutami del Liu, alle prossime. Ciao, grazie ancora per la chiacchierata, ciao. Ciao, ciao a tutti. Attenzione, canale 10.